è vero, quelli miseri, brutti mandroni, oh yeah! Come! Ma c'ho la maschera, c'ho dentro il giubbotto. Ho si tiene nel tuo giubbotto. Vai. Sì, sì, basso la telecerfo. Guarda, lì per sistemare il tutto ci vuole un paio di metri di cavo e un antennino. È risolto per il momento, non puoi stare fuori, non esiste. Io non l'avrei fatto, sono sincero. No, Antonello di Rossi però mi sa che non ti sente. E tu lo senti a lui. Piano piano, dai, anche io ho iniziato così, Poi già ci siamo... Piano piano si migliora. Ma è un attimo, dai, anche un di poco va bene, per parlare con noi, poi se vuoi parlare più lontano, la devi mettere una verticale. Fai, sono qua. Ciao. Allora cosa? Come? Allora cosa? Allora cosa? Giornata piovosa. Giornata che schiaccia. Ma mi senti, sì? Sì che ti sento, tutto barattolato, sì, ma già ti sento. Questo qua è quello normale, baracchino. Come normale? Lo stesso baracchino normale? Come? Non ho capito. No, questo è il mobico. Ah, che okay, questo è quello che modulavo inizialmente. Ehi, la radio è brutta, ma il segnale è tuo. Vabbè. Accontentatevi. Scusa, non lo puoi attaccare l'MVP5 o l'MVP4, cosa c'hai? No, c'ha la connessione a 5, a 6, va a 7, boh. È un casino, là. No, non ci smontano nulla. Però forse non ci siamo con qua l'MVP5, ma di qua, dalla marina. Ah, è vero che l'hai attaccato nell'altro Typhoon. Certo, quanto esce bene quello. Ma sono 50 metri di, l'ho comprato. Di allora, aspetta. RG 58C CU, lo conosci? Sì, è quello a bassa perdita, a doppia cassa, già va bene per quello che devi fare tu. Ho detto, ma perché non inverti tu? Da marina ti porti quello che c'hai a casa, il Typhoon, e così c'è anche più watt. Lo usi con l'eco appena appena, leggero leggero. E a casa tua ti porti quello là con l'MBP5, ragazzi, che se poi ci vede. Ma non è doppia cassa, no. Questo qua è, diciamo, c'è il rame, un filino di rame centrale e la cassa dorata. C'è il rame e la cassa dorata. Sì, ma è a bassa perdita perché il centrale è di rame rigido, non è di quello sfilato. Ma il filo è là. È un 58 è lui, è l'impedenza, è fatto in base a quello che deve fare, l'impedenza che ha. A Giulio devi chiedere, lui in cavi è molto preparato, però è un buon cavo, migliore di quello che facevano prima, capito? No, del 58 normale è sicuro che è molto migliore, è più grosso, vediamo se è più grosso del 58, Sì, no, sto solo chiedendo, non mi sono informato, non so che è buono. Adesso questo qua lo utilizzo per, vediamo, per qualcosa. Lo provo perché mi serve, se vediamo, la canapa la farò con questo, non con quello di Gianni. Non è altro Gianni, anche se l'ho sistemato. Ehi, va bene. Ok. Ultimo per la truppa, Cassiola Leo Sfin, sono uscito dalle 9 e siamo rientrati da là. Fatti un gol. Fatti il gol. Un casino, la gente è tutta in fila, sta piovendo, non ci sono pensierine, con gli ombrelli che ti bagna tutta la roba, guarda, che cazzo, non ce ne può più. Sono uscito all'8 meno 10, perché ho fatto colazione, mi sono lavato, mi sono vestito, sono rientrato a casa alle 10, perché sono andato, prima alle poste per prendere la pensione a mamma, poi si è bloccato il bancomat. Poi da lì sono andato dal medico che di fronte, ho fatto la fila per prendere le ricette, poi sono andato in farmacia, ho un'altra mezz'ora fuori perché ancora era presto, perché ha aperto le 9 più. E poi da lì sono ritornato di nuovo al mio cugino, a fare la fila, stavo di nuovo pagando il banco, ma poi si è di nuovo bloccato. Poi da lì sono andato al PAM di Agatele da fare la spesa, ho fatto la fila per entrare, ovvio. Poi ho fatto la fila alla cassa, perché c'era un po' di gente lo stesso, insomma. Poi ovviamente me l'ho sbucciato, eh. Io ho fatto l'Eurospin. Poi mi ha chiamato Anna e ci ho dovuto andare dal medico a ritirare una ricetta, meno male era già pronta che ha chiamato ieri. Poi sono andato in farmacia, poi mi ho sistemato tutta la roba, l'ho preso tutto quello che serviva per tutta la settimana. Tanto mai è sabato, alla grande a Venari, non esco più, alla prossima settimana uscire. ha fatto tutte le commissioni lui, frutta, verdura, carne, pesce, tutto quello che serviva, l'acqua, ha fatto il carico dell'acqua. E niente, però è un disastro, perché quando piove la gente in fila, non ci sono pensierine all'Eurospin, capito? Non manco la gonade, viene nuda, cosa fai? Niente, quindi la gente con gli ombrelli, tutto in fondo, a un metro di distanza uno dall'altro, ma un manicomio che non ve ne vede a dirlo, io spero che finisca questa cosa, sennò è un disastro. Oggi tutto il giorno così, pioggia leggera, senza vento, bella fine, ma lo sai quanto rompe le balle? No, siamo felici e siamo rovinati veramente. Ma chi è che vuole entrare? Chi è? Rumore, aspetta un attimo, vediamo un po', si riesco il filtro, aspetta. C'è gente sul 23, se non stai prendendo colpi. No, non sto prendendo colpi, no, c'è un rumore dovuto, non mi lago più un pubblico. Allora, quello che c'avevo prima, che l'aveva preso Gianni, a un'asta, non mi ricordo, 50.000 lire. C'era anche la scheda Apple dentro, qui se non pigliava golpe di nulla, non sentivo nessuno, allora mi girava quel baracchino, uguale identica a questo, qui se non piglia golpe di là. Questo qual è? Quello che ti ha dato a Stefano? Si conferma. È nuovo quello lì? È abbastanza nuovo, si va bene, abbastanza, gli ha messo bene. E vabbè, per noi ce ne dobbiamo fare noi, se non termina questo casino. È veramente, per carità. Cazzo, ma tu immaginati una cosa, cos'è successo a mia cognata, alla moglie di mio fratello. Gli è morta la mamma avanti ieri, ok, a Nulvi. Quindi lì a Nulvi ci abitano tre figli, gli altri sono tutti a Sassari, e più mia cognata che abita a Polotores. Non sono potuti andare a vedere la madre morta, nulla, è morta a casa. Sono andati, l'hanno messa dentro la barra e l'hanno portata al cimitero, non è potuto andare nessuno, niente. Purtroppo è così, là. Chi muore, se non lo so, dico se è morta questa signora. Comunque chi muore col coronavirus non puoi vederlo, né nulla, né chiuso, né nulla, cioè né aperto né chiuso, nulla, non puoi, cioè come se l'hai visto l'ultima volta, non lo vedi più dopo. No, non è morta il coronavirus, 36 anni ci avrebbe, è morta così all'improvviso. Penso una broncopolmonite di quelle fulminate, non lo so, non ci ho capito niente. Fisema polmonare, però non aveva nessun sintomo, ho capito. Ha diagnosticato il medico di base. Sì, ma per dirti, cazzo, dimori uno, tu sei da Sassari a Porto Torres, non puoi andare a vedere il defunto, non ti puoi muovere. No, mia cognata ha chiamato anche i carabinieri, dice io devo andare a vedere mia madre, lei non si può muovere da lì, nessuno si può muovere. Capito? Quando finisce tutto andrai a vedere la sua madre, sì, che andai dentro a Rugan Pujanto. Aveva, scusa, 76? 86. Ah, è un casino, va. È un casino. Speriamo che passi tutto. Perché veramente, guarda, è critica la cosa. Ma tu pensa che c'è la visita, vabbè, quella del diabetologo non è molto importante, alla fine le glicemie sono un po' così, ogni tanto esagera, però ci sono io a casa e un po' già si sta mettendo a posto, a piombo. È che ha praticamente la visita per il pacemaker, capito? Perché ce l'ha già qualche anno, adesso quest'anno dobbiamo controllare se la batteria è buona ancora, sennò dovremo riaprire e cambiare il pacemaker. Anna c'era la vista a San Camillo e l'hanno rinviata ad aprire. Meno male era riuscita a fare quella per l'invalidità prima che succedesse sto casino. Adesso sto aspettando l'esito dall'Inpis. E quindi niente. Mo vediamo. Non è entrato nessuno? È entrato Antonello, si è assentato, gli ha schiacciato il telefono. Io non vedo un casino. Vabbè. Antonello chi è? Antonello Alessio? No, Antonello Di Ossi. Ah, Antonello Di Ossi. Va bene. Vabbè, finestra aperta, sta piovendo, piano. Aspetta, dai, stacco questo qua, anche se c'ho il cuscino, non la sera, c'ho un mal di schiena, ma preferisco stare tutto nel letto, claro. posto più comodo. Ciao Eugenio, buongiorno, avanti. Buongiorno. Eugenio, buongiorno. Piovendo sta a Porto Torres, eh? Sì, io lo vedo, c'ho la rete, eh? Porca, dai, se lo fai la spesa, dalle 9 sono rientrato adesso. Aspetta un attimo, eh. Ciao Eugenio, che te mi conta, sa? Bene, come butta lì a Posidonia? Oia, bau, micio, olbia, cazzo, ieri sera c'era una propagazione allucinante, cazzo, roba da brutto. Cro. E io adesso devo andare alla tabacchina a prendermi il tabacco, cazzo. Oia, a far curarmi il fumo, cazzo. Molto movimento al lavoro, io ci. Dico, molto movimento c'era al lavoro. E quindi andai torna di camion frigo e tutte cose. Eia. Bene, da. Stai facendo la raccolta delle figurine con le autocertificazioni. Che se ne ha pigliato per un guru. Oh yeah, cazzo. Vabbè dai. Meglio faccio una risata sopra, sennò guai. Come mi ascolti oggi? Come sempre o ci sono variazioni oggi? Bene. Bene, l'antenna ha resistito al vento in questi giorni. Che ero preoccupato, invece ho visto che in forma, è bella dritta. Guarda la cagliscia che andava bene. Se no mi collego direttamente a Monte Oro. Avanti. Buongiorno a tutti, ciao Franco. Da Sassa di Ljubljana. Ho l'informazione, non è proposta per la camionale, quindi tratta di Porto Torres, è regolarmente percorribile oppure se è interrotta per lavoro? Oh, Gianfranco, ciao, buongiorno. Io per il momento non ti posso essere utile, non so darti nessuna informazione. Se ci fossero dei lavori, presumo che avessero messo almeno un avviso o qualcosa del genere. Sì, perché il tratto, diciamo, da qua a Sassari è bloccato, diciamo, quello che porta la via d'Italia. E volevo capire se era percorribile quello che va, diciamo, a Porto Torres, ecco. Penso di sì, perché... Però non volevo essere certo. Poi ci vorrebbe qualcuno di Porto Torres, se ne lo sa. Io personalmente non ti posso aiutare. Io ho un amico che lavora all'ANAS, però adesso mi viene un po' male mettermi in contatto con lui. So che c'erano dei lavori di bitumatura ultimamente, però sinceramente non mi ricordo dove. Va bene, ok, oggi faccio una chiamata via da strada. Ok, rimango in ascolto, per adesso buona giornata a tutti, anche per Bagnata. Però sai, sembra che non ce ne risparmiamo una, acqua, ghiaccio, freddo, eccetera. Cosa ci manca? Forse qualche meteo, ma forse anche quella magari sta risolvendo. Va bene, ci sentiamo, dai, buona proprio di mente. Eia, eia. Adesso Eugenia è andata a farsi la... Beh, lo possiamo chiedere a Eugenia se c'è. Sta pigliando la spremuta. Genio, che ti risulti? La camionale è aperta? Genio? Beh, un braccio. Chi è? Avanti. Sì, sì, ora, ora, Massimo. Chi? Che non ti ho capito, scusami. Massimo. Ciao, caro. Ciao, caro. Buongiorno anche a te. Avanti. Dove sei? Non ti ho capito, dimmi. Adesso dove sei? Sassari Basso, fuori zona stazione, dai. Stai con lineare? Negativo, liscio come l'olio. Mi accendi tutti i led, eh? Caspita, bene mera, bene mera. E tu dove ti trovi? Alla stazione. Ah, allora siamo molto vicini. Sto prendendo un caffè al bar. Eia, me ne immagino, tutti aperti sono, da Luciano? No, alla stazione. Ah, eia. Eia. Bene mera, bene mera. Com'è, macchiato o normale? Corretto. Con grappino? Tambucchino. Bene mera, bene mera. Arrivi forte di radio, appena appena distorto. Aspetta che attacco lineare, aspetta. Guarda adesso, va meglio? Idem come sopra, uguale. Uguale, non va bene? C'è un'altra modulazione, uguale, uguale. Iguana? Ello, ello. Vabbè, potentati. Ti puoi accontentare dalla mia radio, Giovanni? Ehi, ti ho detto che è appena appena distorta. Ti puoi accontentare dalla mia radio? Ehi, ti sto dicendo che è appena appena distorta. Ah, ok, va bene. Io sono venuto qua in Sardegna per portarvi il virus. Caparrosmetro. Favorire? Non ti ho capito, dimmi. Puoi favorire del virus? No, no, grazie, abbiamo già dato. L'offerta, prendi tre, paghi due. Ehi, sì, sì. Anda bene, anda bene. Proia. Carichi eccezionali allora, no? Cosa vuol dire eia? Ho detto carichi eccezionali. Ma cosa vuol dire eia? Anda bene, anda bene, cosa vuol dire? Genio, mi stavo chiedendo Gianfranco se la camionola è aperta. Ok, perché volevo sapere, siccome ci sono dei lavori in corso, stanno bitumando. Mi ha chiesto se sapevo qualcosa, ma sicuramente in ascolto magari ti ha sentito. Ti confermo, grazie Eugenio, buon proseguimento, rimango in ascolto. Sì, l'importante è che sia transitabile da Sassari fino a Porto Torres, quello chiuso dovrebbe essere via l'Italia. Il tratto che porta da un pezzo, da uno svincolo fino a via l'Italia. Ok, perfetto, grazie Eugenio, buona giornata a tutti. No, negativo, negativo, stazione base. Stupare a Riende, buongiorno ragazzuoli. Ah boh, non ho idea. Ehi, ehi, vabbè, lasciamo perdere. Chi è che è entrato? C'era qualcun altro? Avanti. Oh, io, yeah. Mi sa che mi amo il giubbotto e vado a prendermi il tabacco. Mi hai fumato un coso, un dado, star. Sì, è vero, fai bene, io ho tanto lute invece. Per carità. Ciao Giulio. Ciao. Casino, casino Germania, tutti tedeschi sono, tutti tedeschi. Sì, e beh. Ah, meno male, che ti sei arrivato. Ciao Giulio, che figurati. Tu signori è il zero. Così dicono perlomeno poi. Va bene, dai. E beh, tu. Tutto bene. Ma ti sei esame del tu? Buonasera. Ah, non mi è tanto di me, non mi ricordavo. Sì, io ho fatto un po' di commissione stamattina, a presto, là. Sono andato a prendere la pensione a mamma, solo che purtroppo per sfiga non me l'ha fatta prendere perché si è bloccato il bancomat per due volte. Alla fine stavo aspettando che lo stava mettendo apposta, mi sono rotto le scatole e me ne sono andato. stato a fare la spesa e me ne sono rientrato a casa. Molta gente c'era alle porte, Luca? Assolutamente no. Via Bogino tu sì? E si conferma. Ok. Vabbè che oggi sta anche piovendo, per cui va bene così, là. Cognome C e D. Oggi a me mi interessa il D. Mi interessa il D. Non è per me, ma mi interessa il D. Vabbè, però non è di via Bogino. Non ho posto. Sì, allora la può prendere. Sì. Va bene. Avanti. E oggi? La nave, beh, andiamo, sempre galleggiando. Io sono di gonfia di vedere la nave. Ah, la pressione di gomma, mi fa arrivare alla nave, e oggi? E mi sa che non l'ha misurato ancora. C'ho un po', un leggero mal di testa, poco. Va bene, dai. Andare. Una cosa sei comparendo, Luca? Sì, mi sembra un rotto. Il mio si è rotto, Giulio. Si è rotto. Mi sono trovato la lancetta a penzoloni. Se non mettessi sopra la lancetta, siamo fregati. Aspetta il telefono giù. Ok. Sì, ci sono oggi. No, ti ho domandato se prende la pressione delle gomme alla nave. No, perché se ho chiamato sia io che Luca e non hai risposta. Tu sei il parente da Gravidia, ho capito, è più importante quello. Ok, ciao G. Buon divertimento allora. Buon lavoro, ciao. Ciao Eugenio, ciao, alla prossima. Beh, adesso completo l'antenna, che avevo iniziato. Ah, ma sempre la Ghimasse? Sempre lo stesso tipo allora. L'avevo già iniziata da un po' di tempo, ma devo completarlo. Allora. Ah, va bene, buono. Migliori misuri, colleghiamo. Sì, adesso sono qua, dai. Tanto anch'io sto facendo roba al computer. Vabbè, buon divertimento allora. Hasta la próxima.